Italia in controluce. Buongiorno, si apre un'altra settimana di Italia in controluce, due edizioni 6.30, 13.30, condotto da Daniele Biacchessi. Dario Fo e Franca Rame sono tornati sul palco del Teatro Nuovo di Milano con un vecchio spettacolo, il mitico Mistero Buffo. 40 anni dopo Alessandra Tedesco ha chiesto a Dario Fo perché questa operazione teatrale. Perché moltissimi lo chiedevano, non è chiedessero direttamente, certo aver la possibilità ancora di vederlo così come era all'inizio sarebbe un'emozione, gli amici, no? E poi anche gente che incontravo, io l'ho perduta, mi dispiace, ma non è che lo fate ancora. Allora c'erano sempre queste proposte, queste sollecitazioni. A un certo punto ho detto: senti, abbiamo ormai qualche cosa di più di 80 anni, se non approfittiamo adesso e quando lo facciamo? Ma è uno sforzo, una fatica, eccetera. Beh, dice, facciamola sta fatica. Infatti ci siamo messi a ricercare i pezzi proprio di origine, abbiamo selezionato e l'abbiamo ristudiato, perché dopo 40 anni si perde anche uno che ha memoria, un testo lo si perde. Io non saprei più mettere in scena un testo di 20 anni fa, dovrei ristudiarlo tutto da capo. E lo stesso è successo con questo Mister Buffo. La prima volta aveva debuttato nel 69, che cosa è cambiato da allora? Avete cambiato parte dei testi? No, perché tutto quello che recitiamo ha un'attualità incredibile. Siamo in un clima molto simile, meno festante, meno entusiasta, c'è una situazione più dura, soprattutto perché c'è gente che non ha più lo stipendio, che è licenziata, che non trova lavoro, i giovani soprattutto. Il clima è anche più duro, ma i temi sono gli stessi. E naturalmente proprio per questo clima duro, per questa disperazione che ogni tanto veleggia ed è chiara ed è perfettamente comprensibile, ecco che le battute si raddoppiano di valore. Quindi insomma un testo attualissimo. Sì, proprio. E non ne abbiamo perduto quasi nessuno, qualcuno, ma quando abbiamo perduto le abbiamo battute perché magari correvamo un po' troppo, perché non eravamo abbastanza incisi, insomma, questioni tecniche, non in rapporto a quello che noi andiamo dicendo. Ricordiamo anche che Mistero Buffo ha un linguaggio del tutto particolare. Sì, adesso poi nel metterlo a posto abbiamo trovato anche delle situazioni che sono raccontate in un linguaggio lontano dal lombardo, per esempio il napoletano, alcune cose hanno inflessioni del sud profondo, e anche toscano, anche questo è anche interessante vedere quanto lavoro abbiamo fatto di adattamento con le culture e soprattutto con le forme volgari, del volgare del 400, del 500. E quindi questo spettacolo potrebbe essere tranquillamente riproposto in qualsiasi città d'Italia e funzionerebbe ancora meglio rispetto al tempo passato. Che cosa ha rappresentato secondo lei Mistero Buffo nella storia del teatro? Ma ci sono due o tre cose credo che la gente di teatro ha imparato. Prima di tutto che si può fare il teatro con niente, come lo facevamo noi. Noi non avevamo la possibilità di portare delle scene, di montare, anche perché avevamo una quantità di pubblico impressionante e soprattutto si decideva di recitare in un luogo in 3 giorni, in 4 giorni, una volta era una fabbrica occupata, un'altra volta era un palazzo dello sport, un'altra volta una chiesa sconsacrata, un'altra volta eravamo in riva al mare in una specie di traforo dentro la roccia a recitare, insomma si recitava in spazi completamente diversi e quindi abbiamo imparato a recitare in ogni luogo. Poi quello che era importante era il rapporto col pubblico, il pubblico stava addosso a noi, siccome non c'erano il declivio, il palcoscenico, cosa succedeva? Che noi recitavamo a livello proprio di dove stavano gli spettatori molte volte stavano seduti per terra, non c'erano le sedie, noi si cercavano dei rialzi così inventati, cioè la messa in scena si inventava ogni volta insieme anche al clima che ci trascinava. Secondo lei che cos'è che al pubblico piace di questo spettacolo? Beh, soprattutto è questa immagine dell'improvviso, poi scoprire che anche se si proviene da una cultura bassa, ebbene questa cultura in verità è tutt'altro che bassa, è una cultura alta e è stato il potere che ha inventato che la cultura dominante è quella della classe dominante. Questa l'abbiamo imparato a memoria per anni e anni e anni. Tutto dipende se si permette che questa cultura ponga queste regole e questi fatti. In verità la cultura popolare è molto più antica della cultura, diciamo, di classe, poi oltretutto è più viva e poi è quella che ha inventato i ritmi, i tempi, gli andamenti, le sollecitazioni, l'ironia, il grottesco e via dicendo. E bisogna impararla. Mi ricordo una battuta di un operaio che usciva, eravamo in Sardegna, a un certo punto usciva e dice: stasera ho scoperto che anch'io sono un intellettuale. E questo quindi il messaggio di Mistero Buffo? Uno dei messaggi, poi c'è il discorso della religione, che è diverso dire religiosità e religione. Il popolo attiene una religione indipendentemente dalle regole, dai dogmi e via dicendo, e vive in conseguenza di questa sua antica, straordinaria origine religiosa. Nella seconda parte di Italia in Controluce parliamo di Casa Pound, il gruppo di destra sociale che occupa case sfitte e le trasforma in centri sociali, di destra appunto, Gennaro Grimolizzi. Casa Pound Italia è il primo centro sociale di destra, anche se questa definizione è secondo i suoi fondatori riduttiva, nato a Roma nel 2002 con l'occupazione di uno stabile abbandonato in via Tiberina. Oggi esistono sul territorio nazionale 54 sedi di Casa Pound. Il nome è un omaggio ad Ezra Pound, poeta e saggista americano che aderì al fascismo e con i suoi scritti economici combatté l'usura, considerata la causa delle guerre moderne e dello strangolamento dei popoli. Il simbolo di Casa Pound è una tartaruga, un animale che non è mai spaesato, dato che porta sempre con sé la sua casa, il guscio. Il presidente di Casa Pound, Gianluca Iannone, spiega le origini del centro sociale. Nasce nel 2003 come occupazione non conforme, cioè come occupazione sotto il tricolore, non sotto le bandiere rosse, e nel quartiere multietnico per eccellenza che è l'Esquilino a Roma, quindi tra Piazza Vittorio e la stazione Termini. Nel 2008 si struttura su tutto il territorio nazionale come movimento, aprendo sedi, librerie, palestre, birrerie, In tutta Italia, da Bolzano a Palermo, Casa Pound Italia è presente. Garantire a tutti una casa di proprietà, partendo dalle giovani coppie. E questo il cavallo di battaglia di Casa Pound Italia, come spiega Iannone. Per noi la casa è fondamentale, senza casa non si può mettere su famiglia e non c'è centralità nei rapporti. Quindi noi abbiamo preparato già anni addietro questa proposta di legge che si chiama mutuo sociale, che prevede appunto il ritorno dello Stato come padre, come figura centrale che pensa ai propri figli, ai cittadini, e non a un organo in ostaggio di enti creditizi e di finanziari o banche. Non solo politica, negli spazi del centro sociale si svolgono anche iniziative culturali, a partire dalla presentazione di libri. Adriano Scianca è il responsabile cultura di Casa Pound. Ma tanto per cominciare le conferenze, insomma, consideriamo che solo qui a Casa Pound Roma abbiamo fatte quasi più di 60 in 6 anni, quindi un numero clamoroso che credo non abbia riscontri né a destra né a sinistra, non credo ci sia un altro movimento che abbia un tale attivismo di tipo culturale, ma poi anche abbiamo un nostro sito di produzione culturale che si chiama Ideodromo, che si trova in internet, dove formuliamo le nostre visioni non conformi sulla realtà, ma poi abbiamo anche una compagnia teatrale, ad esempio, che riscopre i grandi classici del teatro che piace a noi, il teatro futurista, ma non solo. Per la musica e gli approfondimenti è stata creata anche una radio online, si chiama Radio Bandiera Nera. Sì, per noi un mezzo di primaria importanza perché ci permette di diffondere le nostre idee su il mezzo più libero che esiste attualmente, che è internet. Insomma, abbiamo tantissime redazioni in giro per l'Italia e molte altre anche che trasmettono dall'estero, come dalla Francia piuttosto che dalla Spagna o altrove. È uno strumento molto importante perché ci permette non solo di far ascoltare la nostra musica e tutto ciò che ci piace, ma anche di portare avanti tutti quelli che sono i nostri discorsi politici, sociali e culturali. Nel centro sociale della Tartaruga e del Tricolore è ambientato il romanzo Nessun dolore di Domenico Di Tullio. Il libro descrive le storie dei ventenni, trentenni e quarantenni della Roma di oggi. Tra i protagonisti c'è anche un avvocato, voce narrante del romanzo nella quale si identifica l'autore. L'avvocato di Casa Pound lavora molto, ma in ogni caso si occupa, per fortuna e per le qualità intrinseche di chi assiste, di reati connessi per lo più all'attività politica, quindi diciamo così reati per così dire minori, che però sono degli incidenti di percorso nella militanza movimentista dei ragazzi di Casa Pound. Lavora molto, ma comunque si occupa di reati che non destano particolare allarme sociale. La contrapposizione tra i centri sociali sembra riguardare solo il campo delle iniziative culturali. Un segnale significativo dopo il clima d'odio degli anni passati. Italia in controluce termina qui, torniamo alle 13:30 naturalmente su Radio 24.